Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus, torneremo sulla lentezza o comunque su come stanno andando le erogazioni. Intanto i prestiti garantiti dallo Stato al 100% fino a 25.000 euro per 100.000 euro di ricavo. Oggi ne abbiamo parlato già ieri, perché c'è un'accelerazione burocratica, perché i prestiti possono essere ottenuti presentando l'autocertificazione sui dati aziendali e sulla propria realtà fiscale antimafia. Attenzione, l'autocertificazione poi ha valore penale, nel caso è un reato penale nel caso di falsa autocertificazione. Però resta ancora il tema dello scudo penale per i dipendenti bancari coinvolti nell'attività di erogazione prestiti. Mi rendo conto che può sembrare un tema tecnico, però poi è da questi dettagli che passa la velocità o meno nell'erogare i prestiti e la resistenza o meno del mondo bancario nell'erogare i prestiti stessi. Ne parleremo con il rappresentante della principale categoria dei bancari italiani, per capire appunto che cosa ancora stia rendendo vischioso il meccanismo. E poi il tema dei 600 euro, scontro aperto tra il governo e il mondo dei professionisti italiani, gli ordini professionali, perché c'è una clausola nel decreto rilancio che escluderebbe quasi tutti i professionisti ordinisti dal bonus dei 600 euro. Ricorderete che già gli ordinisti, cioè chi apparteneva a un ordine, aveva il tetto dei 35.000 euro, poi fino a 50.000 euro per ottenere i 600 euro. E adesso la situazione si complica e cercheremo di capirlo nel giorno in cui però dobbiamo segnalare l'impazzimento del click day. Praticamente questo non c'entra con i 600 euro né con la garanzia statale sui 25.000 euro, però attenzione, c'è il bando imprese sicure lanciato da Invitalia per dare una mano alle imprese che investivano in dispositivi di protezione individuale, perché dava la possibilità appunto di integrare i soldi spesi per le protezioni, quindi gel, mascherine e quant'altro. Che cosa è successo? 250.000 imprese hanno riempito i moduli, comprato, perché avevano comprato e pagato i dispositivi medici individuali e hanno fatto il click day. Alle 9 tutti pronti, dopo un secondo e 4 centesimi, cioè un secondo e 4 centesimi, era tutto esaurito e praticamente solo 3.150 imprese su 250.000 hanno avuto il rimborso, perché i fondi erano già finiti. E qui bisogna anche cercare di capire, senza polemica, non sto polemizzando con il commissario Arcuri, che è anche amministratore delegato di Invitalia, com'è possibile che dopo un secondo e quattro centesimi, faccio neanche tempo a dirlo, così, ecco, tutto era esaurito e 247.000 imprese su 250.000 sono rimaste a becco asciutto dopo aver riempito la modulistica e tutto, perché avevano fatto spese per i dispositivi. E questo è un fronte. L'altro fronte riguarda l'edilizia, da un dossier di Palazzo Chigi emerge che per realizzare grandi opere pubbliche, cioè quelle da un importo superiore a 100 milioni di euro, servono 15 anni e 8 mesi. Voi capite che così non ne usciamo. 8 anni cioè per la parte burocratica, da quando inizia il procedimento a quando parte il procedimento successivo. Ora, le opere bloccate al momento, secondo l'ANCE, che è l'associazione dei costruttori, sono 749 per un controvalore di 62 miliardi. Di queste 749, 101 sono classificate come grandi opere, quindi 56 miliardi. Questo vuol dire rinunciare tra grandi opere e opere meno grandi, ma non si può avere un atteggiamento ideologico nei confronti delle grandi opere. Non è aria, lo dico soprattutto a chi come 5 Stelle si è sempre opposto alle grandi opere, o tendenzialmente ha sempre avuto un atteggiamento molto critico nei confronti delle grandi opere, perché l'ANCE calcola che siano quasi 1 milione i posti di lavoro a cui stiamo rinunciando e 217 miliardi di ricadute sull'economia, perché sappiamo che l'investimento in infrastrutture, piccole o grandi, cioè in opere piccole o grandi, ha una ricaduta enorme nel cosiddetto indotto. Anche qui c'è la teoria economica dibatte tra è giusto dare i soldi, helicopter money, quindi dare i soldi direttamente dall'alto, e c'è chi dice attenzione, però se c'è sfiducia nel futuro io posso ricevere anche 1.000 euro, non li spendo. Mentre se tu fai partire un'opera pubblica, piccola o grande, hai una ricaduta immediata, perché sono occupati che poi spenderanno soldi per mangiare, per cenare, e quindi insomma crei occupazione e crei consumo. Mentre è più dubbio il fatto che se io ho una prospettiva molto incerta sul futuro vado a spendere i soldi che tu mi dai. Vale per gli 80 euro di Renzi come vale per altre formule. Io continuo a prediligere personalmente l'idea delle opere piccole, medie e grandi per la ricaduta che hanno. Cioè qualunque carpentiere, qualunque operaio che lavora in un cantiere poi va a casa, ha una famiglia, spende, cioè tende a riciclare molto di più sul territorio, se, soprattutto se prima era senza lavoro, rispetto al semplicemente così, l'immissione di denaro direttamente nelle tasche degli italiani. E ne parleremo con chi insomma rappresenta un grossissimo gruppo di costruzioni in Italia. Ascolteremo anche la proposta che è arrivata dall'ANCE e quindi dal presidente Buia sul modello Genova, che fa un po' discutere i costruttori, perché dice attenzione, non è replicabile, perché noi vogliamo una gara, e quindi bisogna stare attenti a non avere un modello che escluda poi di fatto una sana gara e competizione tra operatori. Ne parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. E parleremo anche del reddito di emergenza nella prima parte del programma, quando guarderemo alle misure sia come liquidità alle imprese che i 600 euro, perché da oggi fino al 30 giugno, lo dico subito, insomma a partire da oggi possono essere inoltrate all'INPS le domande per il reddito di emergenza. Devono essere presentate all'INPS solo in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con un PIN, SPID, carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica. E per la presentazione della domanda ci si potrà valere anche degli istituti di patronato, e il REM è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati dal decreto rilancio. Ricorderete che il decreto rilancio, quello approvato finalmente da 55 miliardi, introduceva anche il reddito di emergenza. Partiamo dalle notizie di carattere internazionale, poi arriviamo. Dunque, la solita narrazione fasullo sui 5 Stelle: sono contro le tangenti. No, guardi, tutti, le persone oneste sono contro le tangenti. L'idea però che laddove c'è una grande opera, se ho ben capito il suo ragionamento, ci sia una tangente, è un'idea da pazzi. Perché allora o rinunciamo a qualunque grande opera o cerchiamo di fare i controlli. Allora, diciamo, ripristinate un ruolo operativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ma non è che si può bloccare le opere del paese perché più grande è l'opera, più grande rischia di essere la tangente. Non si fa più nulla così. Allora le posso dire che ci può essere la tangente anche sull'edilizia scolastica, e allora blocchiamo anche tutta l'edilizia scolastica. Io dico piccole, medie e grandi, per la ricaduta che hanno. Comunque andiamo avanti, poi ne parleremo nella seconda ora delle opere infrastrutturali. Dicevo, le notizie di carattere internazionale, le borse oggi sono ben intonate, Milano soprattutto più 1,40%, quasi sulla parità, Parigi più 0,15%, Francoforte più 0,15%, Londra in negativo meno 0,30%, Dow Jones meno 0,50%. Perché Milano va meglio di altre? Perché c'è una crescita, diciamo, abbastanza indistinta per settori: di Assori in più 6, Unicredit più 4,80, Prisma in più 4, Nexi più 3,60, Generali più 2,70 come Finecobank, UbiBank più 2,30 come Mediobanca, il 2 lo guadagna Recordati e Intesa, l'1,90 il rialzo di Ferrari e Unipol. Negativo invece Salvatore Ferragamo meno 2,5, Moncler meno 2, Leonardo meno 1,60 come Saipem e BPerBank che perde lo 0,90%. Notizie di carattere internazionale: la Cina per la prima volta da 25 anni rinuncia a darsi un obiettivo di crescita economica per il 2020, non avrà un target di crescita. Il premier Li Keqiang ha rimarcato le incertezze, quindi insomma, non vi sarà nessun obiettivo sul PIL. Ha stimato un deficit oltre il 3,6% sul PIL, l'1% in più rispetto al 2009, e l'obiettivo è di 9 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane, però è 140 miliardi di dollari di bond governativi anti-Covid-19. Veniamo all'Europa. La Banca Centrale Europea ha detto di essere pronta a nuove misure già da giugno, perché tutti gli indicatori sull'effetto economico della pandemia nell'area euro indicano una profonda recessione di circa il 5%. Per quello che riguarda il dibattito invece sul Recovery Fund, Gentiloni oggi, in un'intervista a Handelsblatt, che è il quotidiano economico finanziario tedesco, ha detto: è molto utile che Germania e Francia si siano accordate su una linea comune, questo spiana la strada un'intesa in Europa. Faccio notare che da un lato c'è stato anche ci sono stati vari incontri, ma ci sono due indicazioni che mi interessano. Arrivo dalla Francia, perché ieri il ministro dell'economia Bruno Le Maire ha detto: noi auspichiamo che le regole del patto di stabilità sospese per il 2020 lo rimangano anche per il 2021. Quindi la Francia chiede con un largo anticipo, va detto, la sospensione delle regole, quindi tetto del 3%, riduzione del deficit sotto il 3% fino a zero, immagino anche le clausole degli aiuti di Stato, anche se non erano previste dal patto di stabilità. Per noi varrebbe anche le famose clausole di salvaguardia per non far aumentare l'IVA, cioè che tutto quell'impianto lì resti sospeso anche l'anno prossimo. Dall'altro c'è il tema del gruppo automobilistico Renault. Lo stesso ministro Le Maire oggi ha detto: non so se riusciremo a tenere in piedi. Renault è partecipata pesantemente dallo Stato francese. Il gruppo automobilistico Renault, forse dovremmo chiudere 4 stabilimenti, a dimostrazione che c'è una difficoltà enorme anche in Francia. E devo dire, poi su questo resta l'opposizione dei paesi frugali, ma che, ripeto, bisogna anche contare il peso dei singoli paesi, con tutto il bene che voglio all'Olanda, all'Austria e alla Danimarca. Veniamo all'Italia. Allora, le domande al fondo di garanzia, poi ne parleremo fra poco, e l'ABI ha diffuso anche le moratorie sui prestiti. Però attenzione, il Centro Studi Nazionale IRCAF ha realizzato uno studio nelle farmacie e nei supermercati in 20 città capoluogo di regione e dice che le mascherine chirurgiche a prezzo calmierato, cioè quelle con 50 centesimi più IVA, sono presenti solo in meno della metà dei punti vendita, 45%. I guanti di lattice sono quasi introvabili, e ha valutato una spesa di 75 euro al mese per ogni singolo nucleo familiare. Solo il 61% dei negozi aveva mascherine chirurgiche monouso o usa e getta, il 16% era messo in vendita al prezzo medio nazionale di 1,30 euro, era 3 settimane fa 1,59 euro, solo il 45% sono acquistabili al prezzo calmierato di 61 centesimi di euro. Questo vuol dire che poi il dato è ancora più sconfortante sui guanti di lattice, solo nel 15% dei punti vendita sono reperibili. Ora, vabbè, non posso fare una polemica al giorno, però io vorrei ancora capire qual è il problema nell'avere le mascherine o a prezzo cambiato avere le mascherine, perché continuo a vedere annunci, dichiarazioni del commissario Arcuri, però poi nei fatti c'è ancora una difficoltà. Così come non voglio tornare sulla Regione Lombardia. Ho ricevuto decine di insulti di qualunque tipo, anche a livello personale, per aver detto quello che poi trovate sulla pagina Facebook, anche in rete, ho difeso l'investimento, cioè ho ricordato come l'intervento del deputato dei 5 Stelle fosse fuori luogo, anche perché l'ospedale in fiera Covid, quello fiera, è stato fatto con soldi privati, che non vuol dire che tu li puoi sprecare, ma non aveva senso dire che sono stati sprecati soldi pubblici l'ospedale Covid. E ritengo che c'è un caso analogo nelle Marche, non ho nessuna intenzione di fare distinzione tra Marche e Lombardia, però ritengo che una volta che l'hai fatto almeno tienlo, vediamo cosa succede facendo gli scongiuri a novembre, ottobre. Però ho anche detto che non si può solo risolvere tutto dicendo noi abbiamo avuto una bomba atomica, perché la gestione l'ha creata la bomba atomica, e non vuol dire né attaccare i medici lombardi, gli infermieri lombardi, i paramedici, degli eroi veri e propri, né dimenticare che la Lombardia è un modello per la sanità a livello nazionale, lo dimostrano i flussi oltre che i soldi che ogni anno vengono pagati dalle regioni del sud perché i cittadini vanno a farsi curare al nord. Ogni anno, dati ultimi nella mano, ci sono 100.000 ospedalizzazioni in più in Lombardia rispetto che arrivano da fuori regione, in Emilia sono 64.000 e in Toscana sono e in Toscana 28.000, Lazio 10.000, Veneto 10.000, a fronte di meno 55.000 in Campania, meno 48.000 in Campania, meno 36.000 in Puglia e meno 36.000 in Sicilia. Vuol dire che questa è la differenza tra l'efficienza di un modello sanitario regionale rispetto a un altro, perché quando il cittadino va a farsi curare da un'altra parte vuol dire che non si fida. Con un introito importante di decine di milioni anche per le regioni del nord. Detto ciò, si può ricordare che pur avendo tantissimi centri di eccellenza anche su base europea, la Lombardia non ha funzionato in un'emergenza diversa, e dove non devi andare a farti curare nel centro migliore oncologico, ortopedico, cardiologico, ma dovevi avere la medicina del territorio. Si può ricordare che lì si è aperta una falla senza venire sommersi dagli insulti, no? O immaginando che io attacchi il partito di governo in Lombardia mentre ho fatto gli elogi del partito di governo in Veneto, che è identico a quello della Lombardia, cioè Lega e Forza Italia. Su. Però un dato lo voglio dire a chi mi ha ricoperto di insulti, un dato che conosce bene il presidente Fontana, visto che è stato vicepresidente ai tempi di Formigoni. E il dato arriva dal presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, si chiama Guido Marinoni, non penso che sia un anti-lombardo per definizione. Dice: la Lombardia ha avuto un disastro aereo, non si può tornare indietro, ma recuperare la scatola nera è indispensabile per implementarne la sicurezza. Però anche se c'è uno scontro politico non è un motivo sufficiente per non analizzare gli errori ed evitare di ripeterli. È il presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, non sono io. Va ricercata la causa di tutto nell'abbandono, cito testualmente, dell'assistenza territoriale e nella privatizzazione della sanità lombarda, il cosiddetto modello Formigoni. E vi do un dato e poi la facciamo finta, poi torneranno a insultarmi quelli che vogliono insultarmi. Nel 1981 in Lombardia c'erano 530.000 posti letto, ora sono meno di 215.000. Non dico che dovessi mantenere tutti, ma forse c'è stato un problema di impoverimento di sanità nel territorio. Le USL erano 642, nel 2017 sono solo 97. Erano troppe prima, forse sono troppo poche adesso. Andate a vedere i dati analoghi in Veneto, dove invece si è mantenuto un modello molto simile a quello dei decenni precedenti. E poi ripercorre la storia dell'ingresso nei pronti soccorsi e di non essere riusciti a bloccarli nei territori. Ma c'è un dato che mi ha lasciato particolarmente perplesso, perché al di là della direttiva dell'8 marzo che viene citata, in cui vengono trasferiti i pazienti positivi agli ospedali al Trivulzio e in altre case per anziani, guardate che ci sono i PM di Milano, Brescia e Bergamo che stanno comunque indagando, ora dice, continuano i medici, abbiamo solo 8 unità speciali di continuità assistenziali contro le 65 previste per Milano e Lodi. La denuncia arriva dai sindaci. E quindi attenzione, perché la mia è una critica costruttiva, se si può dire. Cercate, al di là delle polemiche e di continuare a dire abbiamo avuto la bomba atomica, non è colpa mia, non è colpa tua, vogliono attaccare la Lega, stiamo concreti, visto che si parla della Lombardia. Cerchiamo in questi mesi di mettere mano a, diciamo, a un sistema di tracciabilità sul territorio, di assistenza sul territorio, in modo che se malauguratamente a ottobre-novembre, con l'avvio della stagione influenzale, dovesse tornare sto cavolo di Covid, ti sei premunito. Non passate il tempo a polemizzare, ma neanche a dire sempre che qua abbiamo avuto solo sfiga. Ecco, la campagna di sciacallaggio contro la Lombardia. Adesso andiamo avanti. Posso chiedere una cosa a sto genio? Ma perché non mi ha mai scritto campagne di sciacallaggio quando tutti i venerdì come oggi per 5 anni abbiamo fatto la poco invidiabile classifica degli sprechi della pubblica amministrazione e purtroppo una volta su due al top della classifica c'erano Sicilia, Campania, Calabria e via così? Non ho mai letto da lei indicazioni di sciacallo, sciacallo. Ecco, quando si attacca la Sicilia e la Campania non si è mai sciacalli, vero? Allora, andiamo a concludere prima del primo approfondimento. Il fondo INAIL, questo è importante perché sono 43.000 le denunce di infortunio sul lavoro arrivate all'INAIL fino al 15 maggio per contagio da Covid-19. Però l'INAIL ha chiarito, il sottosegretario al lavoro Francesca Puglisi ha chiarito che è stato approvato in commissione alla Camera l'emendamento hashtag liquidità, che assicura i datori di lavoro pubblici e privati che rispettano i protocolli di sicurezza Covid-19 e quindi i datori in regola non possono essere ritenuti responsabili del contagio. E su questo sentiamo il neo presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che ieri è intervenuto sul tema anche della responsabilità dell'azienda. Sapete il tema, se tu davi infortunio sul lavoro quando è molto difficile dimostrare se ti sei contagiato al lavoro prima o dopo, rischiavi di creare decine di migliaia di cause. Altra cosa è dire se tu hai messo tutti i dispositivi come ti abbiamo chiesto: distanziamento, mascherine, guanti, igienizzazione per le mani e quant'altro, non puoi essere chiamato in causa subito solo perché io scopro improvvisamente di essere positivo. Sentiamo Bonomi ieri a Porta a Porta. La responsabilità degli imprenditori in relazione al contagio presunto che potrebbe avvenire in azienda per il Covid-19. Oggi l'INAIL finalmente con la circolare ha sbloccato un po' la situazione, però ci aspettiamo la normativa, cioè se lo Stato non è stato in grado di ritrovare chi era il paziente zero, se tutto il mondo della medicina ancora non ha risolto il problema dei contagi, è pensabile che un imprenditore diventi premio Nobel per la scienza sulla medicina e capisca se il contagio è venuto in azienda o no e lo possa dimostrare? Ecco, questi sono quei passaggi che fanno dire c'è un sentimento anti-industriale. Andiamo avanti, Bonomi è intervenuto anche nella stessa puntata di Porta a Porta sul Recovery Fund e dice deve servire per un grande piano di investimenti infrastrutturali. Ho visto che anche Berlusconi è tornato invece sul MES dicendo guardate che l'Italia conviene, noi abbiamo fatto un calcolo, si risparmiano 6 miliardi di interessi, cioè se tu dovessi ottenere gli stessi soldi con obbligazioni, con i tassi di interesse che ha l'Italia, dovresti spendere 6 miliardi in quel periodo di tempo in più di interessi. Quindi non capisco veramente il problema del MES, però Bonomi sul Recovery Fund che serve per un grande piano di investimenti infrastrutturali, ma lo ascolteremo anche dopo quando parliamo di investimenti infrastrutturali. Invece ha aggiunto la lotta all'evasione fiscale deve andare avanti senza se, senza ma, per una questione di correttezza e di etica nel come si fa impresa. Sul tema dell'evasione fiscale, è una lotta all'evasione fiscale senza se e senza ma. non fosse altro per una questione di correttezza e di etica nel come si fa impresa. Io credo che su questo non ci devono essere proprio possibilità di margini, di errore, di non comprensione. Noi dobbiamo fare una lotta, però la lotta non vuol dire andare a recuperare base imponibile ai soliti noti, perché quello vuol dire essere bancomat di Stato. È molto facile andare a recuperare imponibile sui soliti noti. Io vorrei anche una battaglia forte su quelli che proprio sono sconosciuti al fisco o su quelli che non si vuole colpire. Le faccio un esempio perché non voglio sottrarmi. Si è parlato della battaglia al caporalato recentemente, giusta, corretta, ma io mi chiedo, è 20 anni che sento parlare di questa cosa, ma i proprietari di quei terreni, noi sappiamo chi sono, e io non vedo mai qualcuno che li va a prendere. Ma è possibile? Cioè, il proprietario di un terreno non è una persona sconosciuta, e io non vedo questa voglia di andare a prenderli. Vabbè, non dico nulla, perché se dico che sono d'accordo direte, dicono, ah, lei è d'accordo perché è il presidente di Confindustria, azionista del Sole 24 Ore. Quindi non dico che sono d'accordo, anche se sono d'accordo. Vabbè, andiamo avanti con lo stato gestore, un tema di cui ci occuperemo adesso ancora, secondo me un po' presto, però il tema di avere sì gli aiuti, è uno stato che aiuti le imprese in difficoltà. La preoccupazione è che delle volte poi l'ingresso, c'è stata anche una correzione su questo, ma è che lo Stato poi non si mette a gestire. Io non ho nessun rimpianto della vecchia IRI, dell'ultima IRI soprattutto, quella di Panettone di Stato, e Bonomi ha detto attenzione allo Stato gestore, un conto è un momento di emergenza, ha fatto l'esempio delle compagniere, un conto però è poi restare dentro le compagniere, vedi il caso d'Italia. Non voglio lo Stato gestore nelle imprese. È ovvio che in un momento di emergenza particolare come questa tutti gli Stati intervengono per sostenere le imprese principali del proprio paese, e infatti lo Stato tedesco entra in Lufthansa, prende il 25%, ma non entra nella gestione di Lufthansa. L'errore che ha sempre fatto, secondo me, lo Stato italiano, quindi sono errori di decenni e sono lì tutti a dimostrarle, è quello di voler poi gestire. Lo Stato non è un gestore, non ha queste competenze e queste capacità. Quindi ben vengano gli interventi che mantengono le aziende italiane, le aziende strategiche italiane, senza che però diventi gestore. Ancora due notizie. Allora, visto che parlavo della Lombardia, io posso, ho elogiato la Regione Veneto, ho elogiato anche Zaia più volte, adesso ascoltiamo cosa ha detto Zaia questa mattina a Radio 24, posso anche non essere d'accordo con Zaia ogni tanto, però era ospite di Simone Spezia e Maria Latella e ha detto, tra l'altro faccio notare che il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, a proposito dell'intervento di Ricciardi, ha detto non ha attaccato ma ha posto problemi, invece Zaia ha detto è un attacco al nord, solidarizzo con la Lombardia. Solidarizza con la Lombardia o no, Zaia? Assolutamente sì, ma mi perdoni, guardi, glielo dice una regione che ha titolo di parlare di coronavirus. La Lombardia ha avuto un attacco, un'onda di contagio da paura. La Lombardia ha affrontato un territorio che è diverso da quello del Veneto, perché hanno realtà metropolitane che noi non abbiamo, e posso dire, fare polemica sui morti, sulle disgrazie delle persone è sempre squallido. E vedi, ti posso anche non essere d'accordo con Zaia, perché nessuno fa polemica sui morti, caro Zaia, e sulle persone. Però si può anche dire, così come si elogia il Veneto, che si stanno cercando dei modelli che hanno funzionato per evitare di nuovo di ripetere certi errori. Nessuno ha mai detto che gli errori sono stati fatti apposta. Nessuno, io capisco che la Lega non attacca la Lega, però nessuno sta polemizzando sui morti, Zaia, ma ci permetta come giornalisti, come osservatori, come Ordine dei Medici di Bergamo di anche cercare di capire che cosa non ha funzionato, la scatola nera che invoca il Presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, per capire cosa non dover fare, magari seguendo il modello Veneto, magari seguendo altri modelli, per carità, però non è che non si può parlare di quello che è successo in Lombardia, Zaia, perché chiaramente io capisco le sue esigenze politiche, la danno come l'alternativa a Salvini e non vuole mettere in difficoltà la Lega. Comunque, sentiamo invece Zaia sugli zero contagi in Veneto. Trend è un trend per noi assolutamente incoraggiante già da quel 10 di aprile, no? Con le prime aperture con i codici Ateco, quindi abbiamo sempre curve in calo. Però è anche vero che una rondine non fa primavera, nel senso che quelli sono dati di laboratorio, quelli del bollettino di ieri sera, che confermano il trend, però ci sono tamponi, ne facciamo oltre 12.000 al giorno e quindi dobbiamo appunto attendere ancora un po' per dire che siamo indenni dal virus. Allora, l'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, ha detto che i dati sono in calo in tutte le regioni, anche in Lombardia, e Zaia, visto che abbiamo appena ascoltato, ha aggiunto che a livello europeo dobbiamo arrivare a uno Schengen sanitario per l'apertura delle frontiere. Sì, lì siamo ancora in alto mare su capire come corridoi o non corridoi. E De Luca invece ha detto, governatore della Campania, l'apertura delle regioni non è scontata, sono d'accordo con Boccia. Il ministro Boccia, l'Italia non può rimanere chiusa tra regioni invece della considerazione del governatore Totti, ma attenzione, la Liguria, attenzione che il 29 maggio sarà la data fondamentale per capire quali regioni possono comunicare con altre regioni. Non è scontato, lo dico anche a tutti quelli che vedo in giro così con la mascherina mezza giù, mezza su, pensando che ormai tutto è finito, non è scontato che per esempio questa regione riapra, o che riapra magari Milano, perché dipende come vanno anche le singole città. Quindi invito tutti a mantenere i comportamenti di prima, meteo, pubblicità, e poi partiamo con le banche e le preoccupazioni dei bancari, i 600 euro per gli autonomi, l'incavolatura degli ordini professionali che sembrerebbero esclusi. Focus Economia. Minuti. Allora, ringrazio il segretario generale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, Lando Maria Sileoni. Buonasera. Buonasera Barisoni, grazie. Dunque, i tempi delle banche. Intanto vediamo con i dati. Sono arrivate al 21 maggio le domande di nuova liquidità inviate dalle banche al fondo di garanzia, quindi quelle che le banche hanno ricevuto e hanno girato al fondo di garanzia, sono arrivate a 329.000, stanno crescendo a più di 20.000 al giorno, di cui la stragrande maggioranza, 295.000, per i finanziamenti fino a 25.000 euro, che da soli valgono 6 miliardi. Complessivamente le domande riguardano invece 15 miliardi, perché sappiamo che poi ci sono anche quelle fino a 800.000 euro, fino a 5 milioni, dei 5 milioni in su. Altra cosa, sempre l'ABI, la situazione delle banche italiane, fa notare come le nuove moratorie sui prestiti, perché c'è anche quell'elemento, chi aveva un prestito bancario mutuo, quant'altro ha potuto chiedere una sospensione, ammontano a 2.300.000 pratiche per un totale di 240 miliardi di euro messi in moratoria, cioè sospesi nel pagamento, di cui 1 milione arrivano dalle imprese e 1.200.000 dalle famiglie, che immagino appunto avere mutui, e anche questo è importante. Ieri il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha detto che i 100 miliardi di prestiti delle PMI col Fondo Centrale di Garanzia hanno già raggiunto i 12 miliardi in un mese, arriveranno a 100 miliardi a fine anno, e sui tempi lunghi per i prestiti ha detto che il governo non è soddisfatto dell'andamento, ma era inevitabile affidarsi alle banche. Ma non è che esiste un altro sistema bancario alternativo, le banche sono le banche, il credito lo fanno le banche, quindi è inevitabile affidarsi alle banche. Noi ci abbiamo messo il massimo che potevamo fare, una garanzia fino al 100%, cioè se il prestito non viene ripagato lo paga lo Stato, una garanzia piuttosto impegnativa. Quindi, e vorrei dire che abbiamo fatto anche un'altra cosa che ha funzionato piuttosto bene, non se ne parla, vorrei ricordarla, che è stata la moratoria obbligatoria su tutti i crediti. Ho qui i numeri, li leggo, perché 2,3 milioni di famiglie e imprese hanno potuto bloccare 240 miliardi di prestiti che sono stati liquidità, allora, e questo si faceva automaticamente. E questo l'avete fatto. I famosi 25 mila euro sono iniziati molto lentamente, adesso finalmente stanno entrando a regime, poi le domande ogni giorno crescono, vediamo. Però ha ragione lei che ci sono casi molto differenziati. E così appunto il ministro Gualtieri a Piazza Pulita. Sentiamo anche sulle banche, poi la faccio parlare, se Leone ci mancherebbe, il presidente Confindustria Bonomi, che dice: ma insomma, le banche si comportano da imprese. Il mondo bancario si sta comportando da imprese. Io credo che tutto dobbiamo avere tranne una contrapposizione col mondo bancario, ma capire dove sono i problemi ostativi al fatto che questi finanziamenti arrivino alle imprese. Il tema è chiaro, lo sappiamo tutti, è quello dello scudo fiscale. Non è pensabile che ogni amministratore di ogni banca per ogni concessione di finanziamento rischi un avviso di garanzia, e questo è ovvio che blocca tutto. Abbiamo 19 documenti da presentare se chiediamo un finanziamento, tra cui uno che io ritengo veramente assurdo, che è quello di avere un business plan che copra la durata del finanziamento, 6 anni. Noi non sappiamo cosa succede domani mattina, e quindi come facciamo a dire cosa sarà il business plan fra 6 anni? Mi sembra veramente chiedere dei documenti che non hanno senso. Non dico che sono d'accordo con Bonomi anche su questo, però, allora, sì, Leoni, la lentezza, io non mi aspetto la pratica in 24 ore, però c'è stata anche, abbiamo ricevuto decine di segnalazioni di banche che dicevano non sappiamo ancora cosa fare, siamo incerti, addirittura segnalazioni di qualcuno che diceva ma no, usa la nostra linea di credito, non utilizzare quella garantita dallo Stato. Voi ponete però un problema come bancari dello scudo penale sui dipendenti, ho capito bene, cioè su chi eroga il prestito. Lei ha capito bene, mi permette di essere, come sono, d'altronde sono sempre stato molto chiaro con lei, spero. Vorrei far passare un messaggio intellettualmente onesto. Allora, tutto nasce dal fatto che il decreto liquidità, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, non ha previsto volutamente sanzioni per le banche inadempienti, perché se ci fossero state previste delle sanzioni, noi saremmo già tutti a posto, perché le banche che fanno, qualche banca che fa la furba, probabilmente avrebbe evitato di fare la furba. Poi ieri il presidente del Consiglio Conte dice che raccomanda un'accelerazione alle banche. Allora io mi chiedo, perché il ministro Conte non fa i nomi delle banche inadempienti? Terzo punto, tutti perché sappiamo no? Perché molto probabilmente non vuole urtare alla suscettibilità di nessuno. E perché secondo lei non si è messo una sanzione per le banche inadempienti? Perché non vogliono scontrarsi con le banche. Ecco. Terzo punto, ci sono la stragrande maggioranza dei gruppi bancari oggi, in questo periodo, che in 7-8 giorni deliberano i prestiti fino a 25 mila euro. Per i prestiti da 25 mila a 800 mila euro, che responsabilità hanno le banche se MCC, il certificato di garanzia, arriva di media da 40-60 giorni? Mm-hmm. Quarto punto, io penso di conoscerlo bene il settore bancario, quarto punto, noi stiamo monitorando attentamente ogni giorno da 2 mesi tutto l'intero territorio nazionale. Io ieri l'ho detto pubblicamente, ci sono dei territori che sono penalizzati ed altri che sono invece premiati. Perché la vigilanza lascia fare questo alle banche? Perché nei territori che sono penalizzati, inevitabilmente le aziende corrono il rischio che vanno verso la criminalità organizzata. E sono i territori del sud più penalizzati? Esatto, e sono i territori del centro-sud, esattamente. Vedo che lei conosce, non avevo dubbi, molto bene la situazione. Il problema dello scudo penale che ha prima accennato il dottor Bonomi, che condivido. Allora, i direttori hanno la responsabilità di non incorrere in 2 reati particolari, concorso in bancarotta e un reato che si chiama una concessione abusiva del credito. Il decreto liquidità non ha chiarito questo aspetto. Noi chiediamo lo scudo penale per tutti i direttori di agenzia, no? Perché altrimenti per qualche mese, quando salteranno le aziende, avranno, come dire, sulle loro spalle la responsabilità anche penale di avere erogato credito ad aziende che stavano in difficoltà. E lo chiediamo per quei dirigenti, la cosiddetta fascia più bassa, che comunque hanno l'autonomia di concedere crediti da 25 a 800 mila euro. Questo è un altro aspetto fondamentale. E poi ancora, tenga presente che noi in silenzio l'abbiamo comunque detto chiaramente, abbiamo fatto degli esposti alle procure della Repubblica. Qui ogni giorno ci sono degli atti, dei gesti di violenza inaudita verso chi lavora in banca. L'ultimo è di qualche ora fa ad Opera, in provincia di Milano, dove un lavoratore bancario è stato, come dicono a Roma, pistato selvaggiamente e gli hanno rotto un polso. E abbiamo, da circa 2 mesi e mezzo, abbiamo superato i 100 atti, i 100 gesti di violenza verso chi lavora in banca. Allora, da una parte la politica scarica verso la finanza, da quest'altra parte la finanza scarica verso la politica, e purtroppo chi ci va di mezzo sono le lavoratrici e i lavoratori bancari. E questo io non credo che sia giusto. Quindi Riepilogo, perché è importante quello che lei ci ha detto. Prima cosa, così l'appello lo faccio anche al governo, che grazie, contrariamente a quello che dicono alcuni ascoltatori, critichiamo quando riteniamo sia da criticare. Allora, il dettaglio, come sempre in questo paese, soprattutto dove le pagine sono sempre molte, il dettaglio si annida, il diavolo si annida nei dettagli. E quindi, per favore, non basta fare la norma, mettete anche delle penali per gli istituti bancari che in maniera ingiustificata non vadano a erogare almeno la parte fino ai 25.000, perché poi è vero quello che dice lei, che con l'MCC è più lunga sulla parte fino agli 800.000. B, alla Banca d'Italia, che tanto sensibile è a questo programma, invito la Banca d'Italia a iniziare ad avere delle iniziative di controllo per capire se esistono o no. Guardi, mi stanno scrivendo ascoltatori che hanno ottenuto i 25.000 euro anche al sud. Non voglio, faccio il nome della banca, Unicredit, non ho problemi. A Catania, mi ha scritto un ascoltatore, in 3 giorni l'ha ottenuto. Non so se sia un problema di dimensioni di banche, le risulta questo, più piccole sono, più hanno timori. No, il problema, posso rispondere? Mi dica. Il problema è un altro: ci sono delle banche che sono convinte che hanno, che i piccoli prestiti non sono remunerativi, e quindi danno una comunicazione all'interno in un certo modo, e all'esterno invece dicono che spingeranno fino al massimo per poter poi soddisfare. Beh, è vero che non sono remunerativi, ma non sono pensati per questo. Se io, capo area, riunisco 100 direttori e dico: guardate che lo dobbiamo fare per dovere civico, è chiaro che sto scoraggiando l'utilizzo dei prestiti, no? Mm-hmm. E infatti ci arrivano molte segnalazioni di imprenditori se vuoi c'è la linea di credito nostra, quella solita, ma perché utilizzare quella dello Stato? Però la questione è migliorata nei tempi, se me lo permette. I tempi sono migliorati, lo vedo anch'io dagli messaggi, sì. Però l'ultimo aspetto, quindi lei sta dicendo le penali per chi non... Una penale, insomma, non voglio lo stato di polizia, ma voglio semplicemente che uno che non va a erogare abbia una penalizzazione. Sì. La Banca d'Italia vada a controllare esattamente cosa fanno anche le, non so se sia compito suo, ma insomma, con i nomi e cognomi, voglio dire, non ci possono essere delle banche che ci vengono segnalate. A me ne segnalano molte, molte delle segnalazioni arrivano dalle piccole, glielo devo dire, ma sarà un caso mio. Che dicono no, 3 settimane da quando l'MCC mi ha scritto poco fa uno, è da 3 settimane che il Medio Credito Centrale ha dato via libera, ancora non ho ricevuto nulla. E qui voglio dire, qualcosa uno dovrà fare, anche capire perché, non so, ripeto, se sia la Banca d'Italia, e poi invece al governo di nuovo chiarire lo scudo penale. La Banca d'Italia si può anche fare nome, può anche andare a vedere. È strano che magari si scopre che una banca, una filiale, ha zero o bassissimi prestiti, 25.000 euro rispetto alla media, o veramente non hai imprenditori che te l'hanno chiesto lì, oppure non li stai erogando. Quando lei ha avuto qualche rassicurazione sullo scudo penale, così deviamo almeno una delle cose. Senta, fino a ieri io ho lavorato trasversalmente con tutte le forze politiche e ci stanno assicurando che insomma il problema lo dovrebbero in qualche modo risolvere. Devo dire che anche il ministro Gualtieri se ne è fatto carico, e mi auguro che se ne faccia carico anche il presidente Conte. Il problema sullo scudo penale è veramente importante, perché poi i direttori non possono pagare stretti fra le responsabilità, lo scaricabarile delle responsabilità della politica e della finanza. Quindi io paradossalmente, ma non tanto paradossalmente, sono completamente d'accordo con quello che ha detto il dottor Bonomi prima, perché ha fotografato la situazione. Poi c'è un altro aspetto, se me lo concede, sì, che noi abbiamo 20 secondi, abbiamo approfondito bene il problema. Le microimprese, le piccole imprese sono già indebitate per conto loro prima del Covid per 110.000 euro a testa, quindi non è che come dire ci saranno grandi afflussi. Beh, però il governo con l'ultimo emendamento ha allungato a 10 anni il rimborso. Sì, perché si è fatto dare l'autorizzazione finalmente dalla Commissione Europea. Beh, e 10 anni sono meno di 6. La platea è di 5 milioni, no? Se, sì. lei tiene conto che 500-600 mila, è un approfondimento che abbiamo fatto noi, sono le partite inattive, sono partite IVA aperte e mai vorrei dire. Ce ne sono altre 500.000 in difficoltà prima del Covid, quindi non potranno accedere. Ce ne sono circa altre 500.000 che potranno avere massimo 15.000 euro sui 25. Quindi il risultato finale, se tutto va bene, potrebbe essere che alla fine ci potrebbero essere richieste tra 2 milioni e 2 milioni e mezzo. Questo è il quadro che comunque complessivo. Abbiamo approfondito. Sì, complessivo abbiamo approfondito. Allora, devo dire anche che, mi ha scritto un ascoltatore, la Banca Agricola Popolare di Ragusa sta erogando in pochi giorni. Vabbè, mi fido, adesso non è che posso trasformare il programma in una specie di così tabellone, però vi viene in mente che erogare il credito non è un obbligo? Ecco il problema che diceva Sireoni. Dovevi renderlo obbligatorio, cioè avere una penale se non lo fai, ferme tutte le condizioni a cui devi farlo, antiriciclaggio e quant'altro, almeno adesso c'è l'autocertificazione. Qualcuno mi dice, è vero che non c'è grande margine in questi prestiti, ma non c'è neanche grande rischio. È vero, perché tu non hai da accantonare capitale sui 25.000 euro, visto che sono garantiti dallo Stato. Grazie anche al segretario generale della FABI, Federazione Autonoma Bancaria Italiana, Nando Maria Sileoni, GR24, poi andiamo agli autonomi con i 600 euro e le grandi opere. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, è filiera ecosostenibile, da Brazzale. Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio, il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24% e per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Focus Economia. Minuti, un rapido aggiornamento sui dati diffusi poco fa dalla Protezione Civile, che sono complessivamente buoni. I decessi sono calati rispetto a ieri a 130, sono purtroppo ancora sopra i 100, ma a 130 con un più 0,4%. Ieri erano stati 156, il giorno prima 160 anche martedì e 99 lunedì. E i positivi sono calati un po' meno rispetto a ieri, ma comunque meno 1638. E ieri erano stati meno 1700, il giorno prima meno 2300. I guariti più 2160, che è un dato in linea con quello di ieri e dell'altro ieri, più 1,6%. Il totale dei contagi sono aumentati di 650, sostanzialmente in linea con ieri 640, mercoledì 660, in linea con tutta la settimana tranne martedì, che erano stati 813. Le terapie intensive bene, meno 7%, sono 45 terapie intensive in meno, ed è un buon dato, perché è il calo più forte di tutta la settimana, ma anche delle settimane precedenti come percentuale. E i ricoverati hanno fatto meno 3,6%, cioè 357 in meno, anche questo è un dato in linea, però buono, più forte di quello di inizio settimana. Noi guardiamo soprattutto alle terapie intensive, ai ricoverati e ai decessi, perché quelli non si basano sul numero dei tamponi, chiaramente. E tra l'altro, insomma, sono dati sempre più importanti più ci si avvicina, diciamo, alle due settimane dal 4 maggio e soprattutto dal weekend del 7-8 maggio, primo weekend utile nella fase 2, perché si cerca di capire anche se stia aumentando il contagio. Mi ha scritto un ascoltatore che però adesso non riesco a recuperare perché mi stanno scrivendo molti ascoltatori del sostegno economico di 25.000 euro che non è ancora arrivato. Io continuo a battere il chiodo su questo ce n'era uno, eccolo qua, ristoratore di Milano, vediamo se riesco a aprire, non riesco a aprire il... ristoratore di Milano, chiesto il 22 aprile a BCC Laudense, lodi 25.000 euro, documenti tutti in regola, oggi al 22 maggio ancora nulla, che schifo, io non posso che trasferire questo alla BCC Laudense di Lodi e poi invitare quelli che dovessero continuare ad avere problemi, non so se sia così agevole, ma a cambiare banca, perché evidentemente, cioè, se per un mese con i documenti in regola non ti fanno sapere nulla, c'è qualcosa che non va. E a chi continua a scrivermi le banche non sono obbligate, questo è il problema, dovevi obbligarle, cioè fatti salvi tutti i requisiti, poi non puoi non erogare il credito, perché tu sei un tramite sulla garanzia statale, non è una scelta della banca, fatte salve le garanzie e con lo scudo penale di cui abbiamo parlato prima. Ecco perché Sileone diceva che bisognava pensare anche a una sanzione nei confronti delle banche che, nonostante tutto uno sia in regola, non erogano questi soldi. Restiamo in tema di soldi, di in questo caso 600 euro, perché è scoppiata una polemica enorme tra il mondo dei professionisti italiani, cioè gli ordini professionali, e quelli che si chiamano professionisti ordinisti, sul bonus da 600 euro. Sembra addirittura che possa saltare per la misura per aprile e maggio. Vorrei capire perché, tra l'altro, proprio gli iscritti all'ordine avevano già avuto un tetto nella prima erogazione, quella dei 600 euro di marzo, perché lì era previsto i 35.000 euro di fatturato fino al massimo di 50.000, ma con una perdita accertata del 33% in quel mese. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Che cosa sta succedendo? Perché noi abbiamo capito dal decreto, quello rilancio che io chiamo ristoro, che in automatico chi li aveva presi a marzo li avrebbe presi anche ad aprile, e poi su maggio invece c'era da valutare la parte dei 1.000 euro, ma forse con maggiore difficoltà per gli iscritti agli ordini. Gianni? Sì, sta succedendo un caos, uno probabilmente non voluto e uno invece che sembra voluto. Il primo, quello non voluto, è un incrocio sfortunato tra norme che sembra escludere i professionisti, gli ordinisti, diciamo, dalla replica per aprile e maggio del bonus di marzo. Lo esclude per un complicato intreccio normativo di cui, come dire, faccio a meno di parlare, ma sostanzialmente la norma che rinnova per tutti, quindi artigiani, commercianti, professionisti, i bonus di marzo, poi per un inciampo nelle incumulabilità esclude i professionisti dal rinnovo. Dico che non è voluta perché è molto strano sostanzialmente. No, anche perché molte delle partite IVA sono anche iscritte a un ordine, penso, non so, architetti, commercianti. Sì, il problema è che il decreto marzo, questo bonus di 600 euro, l'aveva fatto con un doppio binario. Per gli autonomi, diciamo così, che non sono professionisti tipo i commercialisti, era in una norma con un fondo. Per i professionisti era in un'altra norma con un'altra regola, perché lo faceva passare dalle casse di previdenza privata. Sì. Ora hanno replicato per aprile e maggio il bonus di marzo, ma elencando tutti i bonus con cui il nuovo bonus è incompatibile, elencano anche il bonus di marzo per i professionisti. Mi sembra che Kafka in confronto fosse una persona ottimista e lineare, diciamo un minimalista. Perché adesso la cosa non ha una spiegazione, non ha un senso logico, non ha una spiegazione razionale. È possibile, anzi appare probabile, che nel caos dei richiami normativi sia successo questo inciampo. C'è però un secondo problema ancora più ampio e ancora più profondo, perché invece quello sembra proprio voluto, è voluto. I professionisti, sempre commercialisti, architetti, eccetera, eccetera, sono esclusi esplicitamente dalla norma che regola i contributi a fondo perduto, quelli di cui abbiamo parlato più volte, certo, in trasmissione, proporzionali alla perdita di fatturato. Quelle, ricordo, in cui lo Stato va a darti fino a 400.000 euro di fatturato annuo, la differenza, il 20% di quanto hai perso tra aprile 2020 e aprile 2019, netto, quindi è un vantaggio più forte rispetto a quello che avresti avuto, perché devi considerare che se non netti avresti dovuto fatturare quasi il doppio per ottenerli, e invece va a calare al 15% fino a 1 milione e al 10% della differenza di quanto hai perso fino a 5 milioni. Ti ho interrotto, Gianni. È esattamente, comunque mi hai interrotto, ma hai detto giusto, perché è esattamente quella norma lì. Tutto questo meccanismo appunto vale per il panettiere, il barista, l'artigiano, tutti i lavoratori autonomi, tranne che per i professionisti iscritti agli ordini. È proprio scritto in maniera esplicita. Cioè, se io ho uno studio di architetto, ho uno studio di avvocato, ho uno studio di commercialista, altri iscritti agli ordini, adesso posso andare avanti. Scusa? Sì, sì, esattamente. Un ingegnere... tutti gli ordini, tranne sostanzialmente, ecco, non posso, posso accedere ai contributi a fondo perduto che ho appena spiegato, perché sono esplicitamente esclusi, il che anche qui è un po' strano, perché comunque tu questo è molto discutibile, ma a differenza del primo caos che abbiamo descritto, qui non c'è l'ipotesi, diciamo, dell'inciampo normativo, perché è proprio una frase lineare scritta. Ti devo interrompere, Gianni, perché poco fa il Ministero del Lavoro ha dichiarato che non c'è alcun blocco al bonus di 600 euro per i professionisti, e la ministra Catalfo nei prossimi giorni manderà, non è la Catalfo sul lavoro, vediamo, eccola qua, comunque manderà il decreto interministeriale che assegnerà le casse le risorse necessarie, e quindi resta dunque ferma l'erogazione delle indennità per i mesi di aprile e maggio. Quindi quella parte lì, che era appunto illogica, dovrebbe essere risolta, visto quello che dicono adesso dal Ministero del Lavoro. Dovrebbe essere risolta nel senso che dovranno, evidentemente, come dire, qui il problema non è di fondi, il problema è che la norma dice che il bonus bla bla bla per aprile e maggio è incompatibile con i bonus di cui all'articolo 44 del Cura Italia. L'articolo 44 del Cura Italia era quello che dava i 600 euro ai professionisti, quindi bisognerà cambiare anche la norma. Insomma. Io mi fido dell'articolo 44 del decreto Cura Italia, conteneva anche le risorse. Resta dunque ferma l'erogazione dell'indennità per i mesi di aprile e maggio. Adesso vediamo, metteranno mano al decreto. Quello che invece tu ci stai dicendo, che sembra abbastanza chiaro, è che invece sul fondo perduto non vengono trattate come imprese. Esatto, non vengono trattati come imprese, il che è piuttosto discutibile, ha fatto infuriare le categorie, tant'è vero che ieri commercialisti e consulenti del lavoro avevano un incontro con l'Agenzia delle Entrate per studiare le norme attuative per rendere più facili e più veloci nelle erogazioni dei bonus, e hanno disertato l'incontro per protesta. Quindi hanno un po' litigato con l'Agenzia delle Entrate, che ha peraltro fatto filtrare in maniera un po', come dire, strana, diversa dalla prassi, il proprio stupore, perché dice così i commercialisti non aiutano i loro clienti. Insomma, c'è un po' di battaglietta politica. Sì, chiaro. Allora, io dico una cosa, adesso speriamo che il Ministero intanto sistemi questa cosa dei 600 euro, da un lato. Dall'altro, anche a me risulta molto, o chiarita la norma, risulta molto strano perché un'impresa, una società, non degli ordini professionali, la società X che fa, che ne so, consulenza, ma non è iscritta a un ordine, può ricevere il fondo perduto e uno studio di architetti o uno studio di ingegneri non può ricevere a parità di condizioni economiche il fondo perduto. Io spero che su queste cose ci si metta una pezza velocemente, perché chiaramente qui non riusciamo a venire fuori dagli azzeccagarbugli ministeriali in alcuni casi. Grazie anche a Gianni Trovati. Nel frattempo, comunque Gianni, poi ci ragioneremo, perché questo tema degli ordini temo che ce lo beccheremo anche tutta la prossima settimana. Da qui passiamo invece alle grandi opere. Perché lo dico? Non è l'unica puntata che faremo su questo. Ho visto che poco fa Italia Viva, nella persona di Renzi stesso, eccolo qua, Renzi subito un piano shock da 120 miliardi di euro sui cantieri, perché ogni cantiere sbloccato sono famiglie che recuperano il diritto al futuro. E qui c'è una stima di quante opere siano bloccate. Io mi riferisco a quella del Lance. Le opere realmente bloccate sono 749, per un controvalore di 62 miliardi. 101 di queste sono classificate come grandi opere per 56 miliardi. Lance, quindi i costruttori italiani, sostengono che questo significa rinunciare a un potenziale economico enorme, ossia 962.000 nuovi posti di lavoro e 217 miliardi di ricadute sull'economia. Sentiamo sul modello Genova il presidente del Lance, Buia, che dice: attenzione, non è così replicabile per il rilancio. È un modello Genova che noi abbiamo contestato, l'ha sempre detto, quel modello non ci va bene, quel modello così come costruito, come operato, non ci va bene che si possa derogare al codice per quanto riguarda le assegnazioni. Non pensiamo sia corretto. Vedete, il modello commissariale è un modello che per noi ha logica oggi, in questo momento particolare, solo nel caso di opere bloccate a monte, cioè tutte le procedure a monte della gara che impediscono l'utilizzo della spesa. Sono tante, sono parecchie. Abbiamo miliardi fermi per queste problematiche. Ma noi la gara vogliamo fare. Noi la competitività fra imprese la chiediamo. Non abbiamo mai chiesto nella nostra storia di derogare a certi concetti di trasparenza e concorrenzialità. E questo noi lo ripeteremo sempre. Non vogliamo rinunciare alla gara. Il modello Genova l'abbiamo accettato perché era Genova. E quindi Buia dice: attenzione, il problema non è la gara, ma è la parte burocratica prima. Lo studio del Lance indica in 15 anni, 8 mesi, la realizzazione di un'opera superiore ai 100 milioni di euro, quindi grande opera. 8 anni servono per i cosiddetti tempi di attraversamento, cioè la parte che intercorre fra la fine di un procedimento e l'inizio di quello successivo. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento, poi lo riavremo ospite la prossima settimana, Michele Pizzarotti, che è vicepresidente e consigliere di amministrazione di Impresa Pizzarotti S.P.A., è una delle più grandi società italiane di costruzioni, 1.300.000.000 di fatturato, 3.000 dipendenti, cantieri in 15 paesi. Buonasera Pizzarotti. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, siccome lei non poteva intervenire prima, io, se lei è d'accordo, la riavrò, perché tanto il tema dei cantieri lo teniamo anche lunedì prossimo. Però le chiedo solo una cosa adesso come anticipazione. È vero quello che dice Buia, o meglio, insomma, che il problema più grosso non sia la gara, anche se io sapevo che poi lì c'è un problema di ricorsi e non ricorsi, ma è la burocrazia precedente e anche successiva? Faccio qualche esempio di opera, giusto per dare l'idea dei tempi. Sì. È stata aggiudicata, per esempio, questa grossa arteria che si chiama Cispadana, 1,3 miliardi di... Dove? Scusi, l'ho persa all'inizio. In Emilia Romagna, un lavoro da 1,3 miliardi, è stato aggiudicato nel 2008, nel 2020 siamo ancora al progetto definitivo. È vero che si tratta di un project finance, quindi di una concessione, però stiamo parlando di 12 anni senza avere, tra l'altro, ancora neanche la visibilità sull'avvio del cantiere. L'autostrada Campovegliano-Sassuolo, che vale circa 600 milioni, l'autostrada che dovrebbe alleggerire il traffico del distretto delle Piastrelle, richiesta dall'inizio del 2000 dall'industria della ceramica, pianificata all'inizio del 2000, aggiudicata nel 2014, ad oggi non è ancora partito il cantiere. Quindi, ma allora, guardi, per far capire a noi, poi ripeto, la riavrò. Lei è dell'idea che, visti questi tempi, piuttosto che niente, meglio il commissario, oppure il commissario rischia di essere una stortura perché non c'è la gara e si procede sul modello Genova e dice no, teniamo comunque una gara tra società? I commissari ideali sono gli amministratori delegati dei principali committenti italiani, quindi RFI e ANAS, facendo l'esempio dei due principali committenti, che devono avere poteri speciali per accelerare l'iter. L'RFI, amministratore delegato Gentile, sulla Napoli-Bari è stato estremamente competitivo avendo questo ruolo ed è quello che verrà fatto. Il metodo Genova, diciamo, il modello Genova non è replicabile. Non è replicabile se non in casi emergenziali. Quindi lei dice date più poteri a Rete Ferroviaria Italiana e mi diceva anche chi? Beh, ANAS. Ma è vero che l'ANAS, a me adesso stavo guardando con le denunce di Buia, perché dice che molti i contratti di programma ANAS non hanno spesso un euro perché sono carenti nelle progettazioni? Mi prende un attimo la sprovvista. Perché sì. Lei lavora. Quindi comunque la sua idea è dire date più poteri agli amministratori legati, cioè agli appaltanti, ho capito bene? A chi appalta l'opera. Stazione appaltante, soprattutto se hanno una pianificazione importante per il rispetto dell'accordo di programma, ci sono degli accordi importanti di miliardi di euro che durano 3 o 4 anni, vengono approvati dal CIPE, devono essere rispettati e quindi ci vuole appunto un potere speciale per avviare le procedure con rapidità. Però Pizzarotti, facciamo una cosa, siccome mi incuriosiscono molto i due esempi che lei citava, la Bretella, diciamo, e Campo Galliano, anche perché conosco bene quel distretto della ceramica, che si è risollevato dopo la concorrenza cinese e quant'altro, le avremo in trasmissione lunedì, perché vorrei capire un pochino più nel dettaglio, non c'era tempo adesso, come mai passano 15 anni senza che ancora, voglio dire, inizi a scavare, non so, per essere un po' brutale, o 12 anni, perché vorrei capire poi dove si crea l'imbuto, quello vero appunto, non quello della ministra, l'imbuto nelle grandi opere. Intanto le auguro buon fine settimana, per ora grazie quindi a Michele Pizzarotti, vicepresidente e consigliere di amministrazione di Impresa Pizzarotti S.p.A. Auguro, qualcuno mi sta contestando il fatto che non si può obbligare le banche a erogare i 15.000 euro, sarebbe anticostituzionale, per carità, però si può almeno trovare un meccanismo sanzionatorio per chi oppone resistenza, questo si può dire, visto che la situazione è assolutamente di emergenza. Sì, vedo moltissimi messaggi sulle grandi opere, rimando a lunedì, non mi resta che ringraziare intanto Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro per l'assistenza in redazione e in regia anche questa settimana e augurare a voi tutti un buon fine settimana da trascorrere necessariamente nella propria regione.